Stoccolma, sabato 7 maggio. Qualche anno fa, nello Skansen, il grande parco di Stoccolma dove sono radunate tante curiosità d'altri tempi, viveva un uomo chiamato Clement Larsson. Era venuto dal nativo Hälsingland per intrattenere i visitatori del parco suonando sul violino antiche arie popolari. Questo solo il pomeriggio, perché il mattino faceva da custode di una delle strane vecchie case di contadini trasportate nello Skansen da ogni regione della Svezia. Col passare degli anni, il menestrello Clement Larsson cominciò ad annoiarsi. Se ne stava da solo per ore e ore ed era in preda a una tale nostalgia che aveva voglia di piantar tutto e tornarsene a casa. Ma era povero, al suo paese avrebbe dovuto affidarsi alla carità pubblica e, per quanto sempre più infelice, si obbligava a resistere. Nel pomeriggio di un giorno di maggio si imbatté, mentre scendeva il ripido pendio dello Skansen, in un pescatore che rincasava con le reti in spalla. Lo conosceva, un giovanottone robusto che veniva spesso nello Skansen a offrire uccelli di mare catturati vivi. Il pescatore gli chiese se il direttore del parco era in casa e Clement volle sapere che cosa avesse da vendere. L'altro aprì il cestino e Clement arretrò in preda allo spavento. Osborne, che cos'è? Dove l'hai trovato? Ricordava che quando era piccolo sua madre gli aveva parlato dei coboldi che abitavano, diceva, sotto l'impiantito e s'arrabbiavano se i ragazzi non erano obbedienti. Adulto aveva creduto che fosse solo un'invenzione di sua madre per tenerlo buono, ed ecco che nel cesto di Osborne ce n'era uno. Osborne rise al suo spavento e spiegò che non l'aveva preso con la forza, ma che era stato il coboldo a farsi catturare. Mentre pescava aveva visto uno stormo di oche alle quali aveva tirato una fucilata. Le aveva mancate, ma ne era caduto giù l'omino. «Non l'avrai ferito, spero», disse Clement. Il pescatore assicurò che era sano e salvo e che l'aveva legato mani e piedi e imbavagliato perché non fuggisse. A Clement tornava in mente tutto quello che aveva udito sul piccolo popolo, gente assai vendicativa, quel che si diceva. «Ma Osborne!» obiettò. Non sai che si tratta di un essere soprannaturale? E il pescatore, impassibile. Non so che cosa sia. Decidano gli altri, a me basta che lo comperino. Quanto credi che me ne darà il direttore? Non so che cosa sia disposto a darti il direttore, ma se lo cedi a me ti offro 20 corone. Persuaso che il direttore sarebbe stato assai meno generoso e che Clement attribuisse al coboldo chissà quali poteri segreti, il pescatore accettò. Il menestrello si ficcò il nanetto in una tasca, tornò allo Skansen, entrò in una delle casette senza visitatori né custodi, tirò fuori il prigioniero e lo mise, ancora legato e imbavagliato, su un tavolo. «Ho una proposta», gli disse. «So che le creature della tua specie non amano essere viste dagli uomini e le loro faccende preferiscono sbrigarle in segreto. Ho intenzione di ridarti la libertà, ma a patto che tu rimanga qui nel parco finché io non ti permetterò di andartene». Se accetti, facendo di sì con la testa. E soggiunse che gli avrebbe preparato ogni giorno del buon cibo, sempre in una ciotola bianca. Il coboldo sarebbe stato libero quando gliel'avrebbe messo in una ciotola azzurra. Il coboldo non fece nessun cenno e Clement allora minacciò di rinchiuderlo in una gabbia e di esporlo alla curiosità di tutta Stoccolma. E la minaccia parve avere efficacia. Il coboldo annuì 3 volte. Clement allora tagliò con il temperino le corde che gli legavano le mani e Nils si liberò da solo del bavaglio. Clement intanto era uscito. Passeggiò meditabondo nel parco finché si imbatté in un vecchio signore dall'aspetto aitante e autorevole che evidentemente lo conosceva. Il vecchio signore lo salutò, gli disse che lo trovava dimagrito e il suonatore gli raccontò della sua nostalgia per il luogo natio. «Come?» disse quegli. Ti annoia Stoccolma? Com'è possibile? Pareva quasi offeso, ma evidentemente si rese conto di avere a che fare con un povero contadino dell'Helsingland e riprese l'aria benevola. Gli chiese se non aveva mai sentito raccontare del modo con cui era stata fondata Stoccolma. No, vero? Soggiunse, altrimenti capiresti quanto sia ingiustificata la tua nostalgia. Andiamo a sederci su quella panchina, ti parlerò di Stoccolma. I due si sedettero e per qualche istante il signore osservò la splendida città che si stendeva ai suoi piedi. Poi, tracciando sul terreno una mappa, spiegò: Ecco, Clement, questo è l'Upland che spinge verso il sud un promontorio tutto intagliato di fiordi e questo è il Sörmland che gli viene incontro con un promontorio altrettanto frastagliato. A ovest c'è un lago, il Mälar. A est un'altra grande distesa d'acqua, il Mar Baltico. E proprio qui, nel punto in cui l'Upland incontra il Sörmland, il Mälar e il Baltico, c'è un fiumiciattolo che congiunge il lago al mare. E sul quale un tempo c'erano quattro isolotti deserti che lo dividevano in parecchi bracci, uno dei quali il Nordstrom. Un giorno un pescatore, attardatosi a gettare le reti nel Mälar, mentre rincasava, fu sorpreso dalla notte e approdò a uno degli isolotti per aspettare il sorgere della luna. Nell'attesa s'addormentò e quando si svegliò la luna era alta in cielo e spandeva una luce tale che sembrava di essere in pieno giorno. Il pescatore vide un gruppo di foche dirigersi all'isola e si curvò nella barca per prendere la fiocina. Quando si rialzò, le foche erano scomparse e al loro posto stavano altrettante bellissime fanciulle incoronate di perle e vestite di lunghi abiti di seta verde. Capì allora che erano ondine e che avevano assunto l'aspetto di foche per venire a terra e danzare al chiar di luna, come amano fare appunto le ondine. Nascosto, stette per qualche istante a osservarle, poi andò a riva, cercò e trovò una delle pelli di foca lasciate dalle fanciulle e la nascose sotto un sasso. Quindi tornò alla barca, vi si sdraiò e finse di dormire. Di lì a poco le fanciulle scesero all'acqua per infilarsi le pelli di foca, ma una di loro non ritrovò la propria e si mise a levare lamenti e grida. L'alba ormai era vicina e le ondine si gettarono a nuoto, ma sulla riva rimase a singhiozzare quella che non aveva la pelle. Il pescatore si impietosì, ma resistette e rimase nascosto fino al sorgere del sole. Allora si levò, spinse la barca in mare, girò attorno all'isola e, come se la scorgesse soltanto in quel momento, chiese all'ondina: «Chi sei, una naufraga?» L'ondina corse alla sua volta e gli chiese se non avesse visto per caso la sua pelle di foca. E l'uomo finse di cadere dalle nuvole. La fanciulla allora sedette su un sasso e ricominciò a piangere e il pescatore le propose di andare a casa sua, dove sua madre si sarebbe presa cura di lei. Sull'isolotto non poteva restare perché non c'era da dormire e da mangiare. L'ondina si lasciò persuadere e il pescatore e sua madre furono molto buoni con lei, che diventava sempre più gaia e aiutava la vecchia. Sembrava tale e quale una ragazza delle isole, solo molto più bella delle altre. Il pescatore le chiese se voleva diventare sua moglie e lei accettò. Si fecero i preparativi per le nozze. La promessa sposa indossò la veste verde e la corona di perle con cui il pescatore l'aveva vista la prima volta. Poi i fidanzati e corteo salirono sulle barche per andare alla chiesa di là dal Mälar. Il promesso sposo, che aveva preso a bordo soltanto l'ondina e la madre, remò così rapidamente da lasciarsi indietro tutti gli altri e, giunto davanti all'isolotto dove aveva trovato la fanciulla, si mise a ridere e, alla domanda della promessa, rispose che pensava alla notte in cui aveva nascosto la sua pelle di foca. Si sentiva talmente sicuro della fidanzata che non credeva necessario mantenere il segreto. Ma pareva che l'ondina non rammentasse più niente, lo guardava meravigliata, e il pescatore allora non ricordi più come danzavi insieme alle altre ondine? Non so che cosa tu voglia dire, rispose la fidanzata. Devi aver fatto un sogno molto strano. E il pescatore: se ti mostrassi la pelle, mi crederesti? Diresse la barca all'isolotto, andò a prendere la pelle nascosta sotto il sasso, ma non appena la scorse, la fidanzata gliela strappò di mano, se la gettò sulle spalle e si tuffò nel fiume, allontanandosi rapidamente. Il pescatore cercò di raggiungerla, disperato, afferrò la fiocina e la lanciò. Aveva avuto buona mira. L'ondina lanciò un grido straziante e scomparve sott'acqua. L'uomo rimase sulla riva, sperando di vederla riemergere. D'un tratto vide l'acqua illuminarsi di un dolce splendore e animarsi di una nuova bellezza. Scintillava e diffondeva un chiarore bianco e rosato come quello all'interno delle conchiglie e quando l'acqua barbagliante venne a lambire le rive, anche queste parvero subire una metamorfosi. Il profumo delle piante acquatiche divenne più intenso. Una dolce luce soffusa rischiarò le sponde, conferendo loro un incanto tutto particolare. Il pescatore intuì che cosa stava accadendo. Le ondine possiedono qualcosa che le rende più affascinanti delle comuni mortali. E ora che il sangue di una di loro era mescolato alle onde, quel fascino si era trasmesso all'ambiente circostante. E da allora quelle rive godono del privilegio di suscitare amore in chiunque le contempli. Da quel momento, continuò il vecchio signore, la gente cominciò ad abitare le isole. Dapprima furono solo pescatori e contadini, ma un giorno venne il re con i suoi jarl, il conte Palatino, e notarono che le isole erano situate in maniera tale che nessuna nave, entrando nel Melar, poteva evitarle. E lo jarl propose di chiudere il passaggio per consentirlo e vietarlo a volontà, dando accesso alle navi mercantili e tenendo lontane le flotte dei predoni. E sull'isola più grande lo jarl eresse un'imponente torre. Collegò tra loro le quattro isole con ponti e le munì di fortificazioni, sbarrando l'acqua con pali e barriere. Il luogo richiamò gente e così sorse la città che si chiama Stoccolma. Vi venne eretto un tempio che fu chiamato la Grande Chiesa. Vi giunsero i frati grigi che costruirono un convento e lo stesso fecero i frati neri. Sopra un altro isolotto venne eretto un ospedale, ovunque comparvero case, e quando le pie donne dell'ordine delle Clarisse vennero a chiedere un terreno, non restò da offrir loro che la riva a nord delle isole. Non ne furono molto soddisfatte, perché sopra una di queste alture era stato eretto il patibolo, ma edificarono un ospedale e una chiesa che dedicarono a San Giorgio. Giunsero anche numerosi mercanti e artigiani tedeschi più abili dei loro confratelli svedesi e per questo accolti a braccia aperte. E costoro rasero al suolo le vecchie capanne e costruirono magnifiche case di pietra. Ma siccome lo spazio era poco, dovettero addossarle l'una all'altra e volgere i frontoni verso gli stretti vicoli. Il vecchio signore tacque e fece un cenno di assenso a un altro gentiluomo della sua età, comparso in quella sul vialetto. Purtroppo adesso devo andare, proseguì, ma ti manderò un libro su Stoccolma dal quale imparerai in che modo la città si è sviluppata, come il mastio sia stato sostituito dal bel castello luminoso che abbiamo di fronte e la chiesa dei Frati Grigi accolga oggi le tombe dei re di Svezia. Saprai anche come il giardino reale sia divenuto un parco pubblico e un luogo di ritrovo per il popolo. Devi imparare a conoscere la città e ad amarla, Clement, perché Stoccolma non appartiene soltanto ai suoi abitanti, ma pure a te e a tutta la Svezia. E rifletti anche sulle curiosità radunate qui, nello Skansen. Guarda quelle vecchie case. Lì si ballano le danze antiche. Ci sono gli utensili domestici di un tempo e gli abiti che indossavano i nostri antenati. Qui vivono i menestrelli come te, i narratori di saghe e favole fiorite tra il popolo. Tutte le vecchie buone cose Stoccolma le ha raccolte nello Skansen perché siano apprezzate e onorate dal popolo. Ma soprattutto, Clement, per leggere il tuo libro devi sederti qui, su questo poggio, ammirando il panorama, lo scherzare delle onde, la bellezza di queste rive scintillanti. Devi subirne l'incanto, Clement. Il vecchio e distinto signore aveva parlato con voce forte e imperiosa e i suoi occhi lampeggiavano. Si alzò e si congedò da Clement con un piccolo cenno della mano e il menestrello si rese conto che colui che gli aveva parlato era davvero un gran signore e si inchinò fino a terra. Il giorno dopo, un valletto della reggia portò a Clement un massiccio volume rilegato in rosso e una lettera in cui si spiegava che il libro gli giungeva da parte del re. Il povero menestrello Clement Larson rimase per alcuni giorni come trassognato. In capo a una settimana andò a rassegnare le dimissioni al direttore. Era costretto, spiegò, a tornare al paese. «E perché?» gli chiese il direttore. «Non ti piace stare qui?» E Clement: «Sicuro che adesso mi piace, ma bisogna che torni a casa». In realtà si trovava in un grande dilemma. Il re gli aveva ordinato di conoscere Stoccolma e di starvi volentieri, ma come poteva rinunciare alla felicità di far sapere a quelli del suo paese che il sovrano in persona gli aveva dato quell'ordine? Aveva assolutamente bisogno di raccogliere attorno a sé gente all'uscita di chiesa la domenica e di raccontare che Sua Maestà gli si era seduto accanto. E aveva perso tempo a discorrere con lui, povero menestrello, per fargli passare la nostalgia. E anche se fosse finito all'ospizio, Clement sarebbe stato felice per sempre. Era cambiato, avrebbe goduto di una considerazione prima ignota. Il suo desiderio era irresistibile e il direttore dovette lasciarlo andare. Gorgo l'Aquila, la vallata alpina. Nel lontanissimo nord, in Lapponia, c'era un vecchio nido d'aquila aggrappato alla sporgenza di un dirupo precipite. Costruito con rami di pino, nel corso degli anni era stato via via ingrandito e adesso aveva un diametro di circa 2 metri ed era alto poco meno di una tenda lapone. Nella valle sottostante, quasi ignota agli uomini, d'estate si stabiliva uno stormo di oche selvatiche. In mezzo alla valle si apriva un laghetto che offriva loro abbondante cibo e le rive, coperte di canneti, assicuravano ottimi nascondigli per la cova. Le oche abitavano il luogo da tempi immemorabili. Ogni anno le aquile rapivano qualche oca, ma senza eccedere, altrimenti le oche stesse non sarebbero tornate. E d'altra parte le aquile le proteggevano da altri potenziali predatori. 3 anni prima dell'avventura di Nils, H. di Kebnekaise, un mattino stava osservando il nido delle aquile. Queste partivano poco dopo l'aurora e H. le teneva d'occhio per accertarsi che non scegliessero la valle come terreno di caccia. Ma i due splendidi e temibili uccelli spiccarono il volo verso le pianure e H tirò un sospiro di sollievo. Era ormai troppo vecchia per deporre uova e allevare piccoli, ma passava di nido in nido dando consigli senza smettere di stare allerta perché temeva anche le volpi alpine, i gufi e molti altri nemici delle oche. Verso mezzogiorno si mise a spiare il ritorno delle due aquile. Dal loro modo di volare capiva se avevano fatto buona caccia e se lei e il suo stormo potevano starsene tranquille. Ma quel giorno aspettò invano. Le aquile non ricomparvero nemmeno la sera, all'ora in cui si bagnavano nel lago. E H si chiese se per caso non era così vecchia ad aver perso la vista. L'indomani si svegliò di buon'ora nella speranza di vedere le aquile, ma ancora inutilmente. In compenso, udì levarsi un grido lamentoso e furibondo insieme che pareva provenire dal nido delle due aquile. Spiccò il volo e salì rapidamente in alto, tanto da potervi guardare dentro. Non vide nessuno, né il maschio né la femmina. Nell'enorme nido c'era solamente un aquilotto seminplume che sbraitava per la fame. Sia pure malincuore, H scese verso il nido. Era un lugubre covo, si capiva subito che era una dimora di briganti. Il nido e la sporgenza rocciosa erano disseminati di ossa, penne, lembi sanguinolenti di pelle, teste di lepri, becchi e zampe di pernici. Orrendo a vedersi era anche l'aquilotto che stava tra gli avanzi, con quel suo grande becco spalancato, il corpo massiccio, ricoperto di una leggera peluria e 2 monconi di ali su cui le future penne si innestavano come spine. Vincendo la propria ripugnanza, H si posò sull'orlo del nido e l'aquilotto prese a strepitare. Era ora! Portami subito da mangiare! Calma, calma, fece H di rimando. Prima dimmi dove sono i tuoi genitori. L'aquilotto rispose che non lo sapeva e che era una vergogna che lo si lasciasse morire di fame. H era ormai quasi convinta che le due aquile fossero state uccise e se avesse lasciato morire di fame l'aquilotto, quella razza di briganti avrebbe finito di angariare lei e le sue compagne. Ma le pareva odioso non soccorrere un piccolo inerme. Allargò le ali, piombò nel laghetto della valle e risalì quasi subito con una trota nel becco. Alla vista del pesce l'aquilotto andò su tutte le furie. Credi forse che io possa mangiare quella roba? Gridò respingendo il pesce con la zampa. Portami un topo o una pernice, capito? H gli lasciò andare una beccata sulla zucca. Sta bene a sentire, gli disse. Se vuoi che ti porti da mangiare, accontentati di quel che ti posso offrire io. Tuo padre e tua madre sono morti e se tu vuoi crepare di fame in attesa della selvaggina, padronissimo. E se ne andò. Un'ora dopo tornò al nido e trovò che l'aquilotto aveva divorato il pesce. E spazzò pure, senza la minima protesta, una seconda trota portatagli dall'oca. E da quel momento H provvide a nutrirlo con pesci e ranocchi, una dieta che faceva tutt'altro che male al piccolo, il quale cresceva a vista d'occhio e considerava ormai H la sua vera madre. Dal canto suo lei gli voleva bene come un figlio e cercava di educarlo a moderare la ferocia e l'arroganza della sua specie. Ma dopo 2 o 3 settimane H s'avvide che lei stava per mutare le penne e che quindi non avrebbe potuto volare per la durata di una luna. Per Chi avrebbe portato da mangiare al suo protetto? Propose allora a Gorgo, così l'aveva chiamato, di scendere nella valle. I casi erano due: o morire di fame o buttarsi dal nido, per quanto rischioso fosse. L'aquilotto non esitò un istante. Si arrampicò sull'orlo del nido, allargò le tenere ali e prese lo slancio. Caprioleggiò nell'aria, ma bene o male ce la fece a toccar terra sano e salvo. Trascorse l'estate con le oche, vivendo come loro. Pretendeva di imitarle in tutto e un giorno che le seguì in acqua rischiò di annegare. Era umiliato di non saper nuotare e se ne dolse con H, che tentò di consolarlo. Le unghie ti si sono incurvate troppo nel nido, gli disse. Ma non crucciarti, diventerai comunque un uccello come si deve. Le ali dell'aquilotto crescevano a vista d'occhio, ma lui non pensò di servirsene per volare prima dell'autunno, quando anche i giovani paperi impararono a farlo. E per lui fu un momento di gloria, perché ben presto divenne il campione del gruppo in quello sport. Le oche non restavano mai a lungo in aria, ma Gorgo vi trascorreva tutto il suo tempo. Non si era ancora reso conto di essere di specie diversa da quella delle oche, ma aveva notato molti particolari di cui chiese la spiegazione ad H. Perché quando la mia ombra cade sulla terra, pernici e topi fuggono veloci, quando invece vedono i paperi non lo fanno? E H. Hanno paura delle tue ali, che si sono sviluppate troppo mentre eri lassù nel nido. Ma non te la prendere, vedrai che diventerai comunque un uccello come si deve. D'autunno, quando le oche selvatiche migrarono, Gorgo le seguì. Continuava a considerarsi un loro simile. In aria incontrarono migliaia di uccelli in viaggio verso i paesi caldi e grande fu lo stupore quando scorsero un'aquila tra le oche. Sciami di curiosi erano sempre intorno allo stormo di H, che li supplicava di tacere, ma invano. Gorgo si seccava. Perché mi chiamano aquila? Io non appartengo a una specie divoratrice dei loro simili, non lo vedono che sono come voi? Passarono sopra una masseria e le galline presero a gridare atterrite: Un'aquila! Un'aquila! Allora Gorgo, che aveva sempre udito parlare delle aquile come di terribili malfattori, non seppe più dominarsi. Piombò su una gallina, la strinse tra gli artigli. Ti insegnerò io a scambiarmi per un'aquila! Strillava rabbioso, prendendola a beccate. H lo richiamò ed egli risalì, obbediente. L'oca gli diede una lavata di capo e, siccome l'aquila sopportava la ramanzina senza reagire, tra la folla dei volatili presenti alla scena si levò un uragano di proteste, fischi e risa. L'aquilotto si volse ad H, guardandola furibondo, ormai fuori di sé, come se volesse attaccarla. Ma cambiò idea, spiccò il volo e scomparve in cielo a grandi colpi d'ala. 3 giorni dopo riapparve. Adesso so chi sono, disse ad H, e dato che sono un'aquila, da aquila devo vivere. Penso tuttavia che potremmo ugualmente rimanere amici. Non assalirò mai nessuno della tua specie, te lo prometto. H, che si era sforzata di far di lui un uccello mite e inoffensivo, non poteva accettare che cambiasse vita e glielo disse chiaro e tondo. Non ti permetterò di venire con noi se non ti comporterai come ti ho insegnato. Credi forse che io potrei essere amica di un divoratore di uccelli? Erano tutti e due testardi e incapaci di cedere, e H finì per ordinare a Gorgo di non farsi più vedere, e nessuno osava più pronunciarne il nome in sua presenza. Da quel giorno Gorgo errò solitario e odiato da tutti, da temuto masnadiero. Ma spesso era colto dalla tristezza e rimpiangeva il tempo in cui si credeva un'oca selvatica e giocava con i paperi. Godeva della fama di uccello ardito che non temeva nessuno all'infuori di sua madre adottiva, la vecchia oca H, e si diceva anche che mai assalisse le oche. Prigioniero. Gorgo aveva 3 anni e non si era ancora scelto una compagna e una dimora quando venne catturato e venduto nello Skansen. Vi trovò altre aquile rinchiuse in una grande voliera, tutte molto deperite, perché costrette all'immobilità, e anche lui finì per intristirsi. Sonnecchiava senza accorgersi che il tempo passava. Un mattino udì qualcuno che lo chiamava dal basso. A fatica si riscosse dal suo torpore e guardò in giù. Chi mi vuole? Chiese. Sono il piccolo amico delle oche selvatiche, disse una vocina. Gorgo si sforzò di riordinare le idee e chiese se c'era anche H. Nils rispose che lo stormo doveva essere ormai in Lapponia e che solo lui era prigioniero. Ma già Gorgo stava ripiombando nel torpore, con lo sguardo fisso nel vuoto. «Aquila Reale!» gridò allora il ragazzo. «Posso fare qualcosa per te?» E Gorgo, con aria triste, farfugliò. «Lasciami in pace, pollicino. Io sogno. Volo lassù tra le nuvole, non voglio neppure essere svegliato». «Ah, devi muoverti e interessarti a ciò che ti accade attorno», insistette Nils, «altrimenti finirai per avere un'aria da far pietà come le tue compagne». E Gorgo: «Vorrei essere come loro. Sono talmente immerse nel proprio sogno che non si accorgono più di essere prigioniere». Nel corso della notte udì un leggero rumore sul tetto della voliera. Le vecchie aquile non si scomposero, ma lui tese l'orecchio e chiese: «Chi è?» Nils gli rispose che stava limando le sbarre per poterlo far fuggire. Ma Gorgo scosse la testa desolato, disse a Nils che era troppo grosso perché il ragazzo riuscisse a praticare un'apertura sufficiente, ma Nils non si scoraggiò. «Dormi e non badare a me», gli disse. «Presto sarai libero, vedrai che ce la farò». Gorgo si riaddormentò. Quando riaprì gli occhi, si accorse che una delle sbarre era stata limata e quel giorno si esercitò a volare con un barlume di speranza da uno all'altro dei due alberi che erano stati messi all'interno della voliera. Passarono parecchi giorni e soprattutto notti di lavoro per Nils e finalmente nella voliera ci fu un passaggio largo abbastanza perché l'aquila potesse spiccare il volo. Nils lo guardò salire in alto con profonda malinconia. Ah, se non fosse stato legato alla sua promessa, avrebbe potuto trovare qualche uccello disposto a ricondurlo dalle oche. Il fatto è che Clement, sconvolto dalla visita del re, si era dimenticato di ridare la libertà al nanetto e se ne ricordò solo all'ultimo momento. Non trovò una ciotola azzurra e al momento di congedarsi prese in disparte un vecchio lappone, gli disse che c'era da lui un coboldo, gli diede qualche moneta perché andasse a comprare una ciotola azzurra e la deponesse sulla soglia della casetta. Poi partì. Il Lapone, che era rimasto a bocca aperta per lo stupore, scese in città ad acquistare la ciotola, ma di azzurre non ne trovò e la comperò bianca. E ogni mattina la deponeva piena di cibo nel punto stabilito. E così Nils era rimasto nello Skansen, vincolato sempre dalla sua promessa fatta a Clement Larson. Era venuta l'estate e Nils respirava a pieni polmoni l'aria tiepida, sognando di vagare sulle ali dell'oca bianca, e in quella l'aquila Gorgo scese come una freccia e gli si posò accanto. «Non avrai creduto, spero, che volessi piantarti in asso. Montami in groppa e ti porterò dalle tue compagne». Ma Nils rifiutò, aveva dato, disse, la sua parola di rimanere finché non gli avessero restituito la libertà. «Che storie sono queste?» insorse Gorgo. «Ti hanno fatto prigioniero a forza e ti hanno estorto una promessa priva di valore». Nils lo ringraziò, ma insistette. Lui alla sua parola ci teneva. «Non puoi far niente per me», concluse. «Non posso far niente. È quello che vedremo subito», disse Gorgo, e afferrato Nils Holgersson con gli artigli, si alzò con lui fino alle nuvole, scomparendo verso il cielo del nord. Attraverso il Gästrikland. Mercoledì 15 giugno. L'aquila si posò a terra solo quando fu molto a nord di Stoccolma e appena libero Nils partì in corsa in direzione dello Skansen. Gorgo con uno scatto lo riacciuffò e lo tenne stretto con una zampa. «No, pollicino», gli disse, «sono ben deciso a ricondurti dalle oche selvatiche. Mi hanno detto che sei il beniamino di Hac e vorrei che tu intercedessi per me». «Sarei ben lieto di esserti utile, Gorgo», replicò Nils, «ma non posso mancar di parola». E gli raccontò di come Clement Larson lo avesse riscattato dal pescatore e fosse partito senza scioglierlo dalla promessa. Ma l'aquila non rinunciava al suo progetto e gli propose di andare insieme a cercare Clement e sistemare la faccenda con lui. Nils accettò e Gorgo, deciso a frugare tutto lo Helsingland per trovare il menestrello, se lo prese in groppa e spiccò il volo attraverso il Gästrikland. Giunto nella parte settentrionale della regione, scese sulla vetta di una montagna brulla e disse al ragazzo: «Qui c'è selvaggina e per sentirmi davvero libero devo fare una spedizione di caccia. Ci ritroveremo quassù al tramonto, d'accordo?» Rimasto solo, Nils si sentì sperduto. Si sedette su un sasso, guardò la montagna brulla e le grandi foreste ai suoi piedi. E poco dopo udì un canto tra i boschi e vide qualcosa di chiaro salire tra gli alberi. Ben presto riconobbe uno stendardo giallo e azzurro, e dal canto e dal gaio brusio capì che si trattava di un corteo che non poteva ancora distinguere. La bandiera saliva a zigzag lungo il sentiero che fosse diretta proprio all'altura deserta su cui sedeva Nils, ed ecco lo stendardo sbucare dal limite del bosco, seguito da una folla variopinta, ed era tale l'animazione dello spettacolo che il ragazzo non ebbe più il tempo di annoiarsi. Il giorno degli alberi. 12 anni prima un incendio aveva devastato il dosso del monte su cui Gorgo aveva posato Nils, e gli alberi carbonizzati erano stati abbattuti. Non ne restavano che i ceppi nerastri, e dal terreno arido non spuntavano più polloni. Venti e acqua avevano spazzato l'humus e la cima era ridotta al nudo scheletro roccioso. Ma un giorno i ragazzi del luogo si erano radunati davanti a una scuola e ognuno di loro portava sulla spalla una zappa o un piccone e in mano portava un cestino di provviste. Poi il piccolo esercito si era avviato verso il monte con lo stendardo in testa, scortato dagli insegnanti e da due guardie forestali. Un cavallo trascinava un carretto di piante, di pino e semi di abete. Finalmente il corteo raggiunse la brulla vetta dove i massi apparivano spogli, senza quel rivestimento di muschio e di lichene che le renne brucavano tanto volentieri. Nel cavo delle rocce ristagnava una pozza d'acqua nera, ma in essa non c'erano ninfee né attorno pianticelle di acetosa. Bastò tuttavia che i ragazzi si sparpagliassero sulla cima perché il monte fosse come illuminato da un raggio di sole. C'era ancora qualcosa di fresco, di giocondo, di roseo lassù, qualcosa di giovane e vivo. Dopo essersi un po' riposati, i ragazzi, sotto la guida delle guardie forestali, diedero mano agli attrezzi e cominciarono a piantare i pinetti, chiacchierando con aria esperta. Le pianticelle avrebbero impedito al vento di portar via l'humus. Sotto gli alberi si sarebbe formato nuovo terreno fertile. Semi vi avrebbero attecchito e nel giro di qualche anno si sarebbero raccolte fragole e mirtilli, dove adesso non era che morta roccia. Mentre loro lavoravano, i genitori che li avevano seguiti andavano dicendosi che naturalmente era solo un gioco, impossibile che dei bambini riuscissero a piantare un intero bosco. E tuttavia sarebbe stato divertente vederli all'opera. Ma giunti alla vetta, finirono per interessarsi al lavoro e si stupirono della serietà con cui i piccoli lo compivano. Questi piantavano un alberello, quegli tracciava solchi, spargendovi poi le sementi, un terzo strappava le gramigne che avrebbero soffocato la pianta, ci davano dentro proprio di lena. Dopo essere stato per un po' a godersi lo spettacolo, un padre cominciò a dare una mano, ben presto imitato dagli altri adulti. I ragazzi erano felici, tutti lavoravano per far risorgere la montagna. Se in primavera era piacevole spargere le sementi nei campi, quanto più appassionante era il pensiero di ricreare un verde monte. Da quel terreno non sarebbero spuntati esili steli e spighe, ma alberi possenti. E la cima del monte sarebbe stata abitata da merli e galli cedroni, passeri e fringuelli, farfalle, tafani e grilli. Che monumento per le generazioni future! Al posto di un'altura nuda e triste, una foresta rigogliosa e robusta, e i posteri avrebbero capito di aver avuto antenati saggi e buoni e avrebbero pensato a loro con rispetto e riconoscenza.